cammino di Gigi D'Agostino. Buongiorno. Ricomincio la camminata. Oggi è giovedì. Momentaneamente disconnesso. Questo è il momento promemoria. Ah, è cazzino. Giovedì 6 luglio 2006. Dai, Gigi. E voi qua. Poi innanzitutto voglio ringraziare tutti i ragazzi che hanno partecipato alla serata di la serata di questa notte, o la notte di ieri sera, insomma, ieri notte era la discoteca Continental. Grande serata, e dopo la serata mi hanno scritto in molti al numero della messaggeria e volevo ringraziarli. Non posso citarli tutti perché sono un po'. Momentaneamente disconnesso. Il ragazzo un po' depresso. Spero che il mio grazie vi arrivi a casa. Di Gigi D'Agostino. Questo ringraziamento va a tutta quella gente che continua a scrivermi, continua a mandarmi dei pensieri, delle critiche, belle e brutte, comunque costruttive, sincere, questo è importante. Quindi grazie, grazie davvero, perché anche se io non riesco in tutte le puntate a leggere le dediche, i vostri pensieri, comunque sia, voi mi comprendete e continuate a scrivermi, perché lo sapete che io prima o poi leggerò tutto e manderò in onda tutto. Devo riuscire solo a organizzarmi meglio. Grazie a voi, ce la farò. Il numero della messaggeria per chi volesse scrivermi è il seguente: 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Che? Oggi già. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Tick. voce del verbo te saluto e non te vedo. Il prossimo appuntamento con me e con voi, o il mio appuntamento con voi, o il vostro appuntamento con me, andrà male. Insomma, la prossima serata in discoteca. Dai, G, ce la puoi fare. La prossima serata in discoteca con la mia musica e i vostri sentimenti sarà venerdì 7 luglio 2006. E cioè venerdì questo qua. Discoteca Chalet de la Motte. È quasi cotto. Via del Bedolè, te lo trovi da te. Numero 1. Baselga di Pinè, è facile da trovare. In provincia di Trento. Vieni lì che t'accontento. Inchia le rime, oh. Il locale apre alle 22 circa. Alle 22:30 indicativamente si comincia e alle 4 chiude tutto. Ce ne andiamo. Ci vediamo lì, venerdì. Questo cammino spacca. Di Gigi D'Agostino. D'Agostino, reparto pelle d'oca. Momenti musicali disconnessi. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. M2O. Musica allo stato puro. Ci fermiamo quel minimo, riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Momenti musicali disconnessi. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Alla faccia di chi ci vuole male. Oh, già. Cammino di Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Oh! Put up.